Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione, grazie a Luca Giulio per la regia, e l'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Buona giornata a voi.